Inchiusa il canto dell'alpino caduto sull'Alpe e sepolto sotto una roccia, Stelutis alpinis, il canto pervaso da umano sentimento che ne spiega la diffusione, specialmente tra gli alpini. Autore dei versi e della musica Arturo Zardini, un emigrante costretto ad abbandonare nei giovani anni la natia Pontebba per ridursi sulle fornaci d'Oltralpe. Fu anche in Russia. Da ciò forse l'affinità del motivo di Stelutis con i canti della steppa. Se tu venis, caso tascretis, la che lor mian soterat, aleus plats plen di Stelutis, dal mio sant ale bagnat. Se salirai quassù tra le rocce, dove m'hanno sepolto, troverai uno spiazzo coperto di stelle alpine, bagnato dal mio sangue. Par segnal une crosute, iescolpide lì tal cret, fra che stelis nas l'erbute, sob di lor io duat quiet. Quale segno? Una croce scolpita nella roccia. Cresce l'erba tra le stelle alpine, sotto cui dormo tranquillo. Thank you. abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, musiche del Friuli, 42esima trasmissione dedicata agli emigrati, musiche popolari e di Arturo Zardini.